samba, au kutuna kumbwa marilwiza, baki yu, baki yu, pili kamutiu. Sulule wawo, nipuna mututeu, awole wawo, nipuna mututeu, kasi butile, akumbi nuketeu. Ole kamba akope nuketeu, ole wau kubanga kayu. Ama bene lavole, ah batonao. Ama bene lavole, ah tata bateleo. Ama bene lavole, ah tata batonao. Ama bene lavole, mama na leleo. Ama bene lavole, ah mama na mala e. Ama bene lavole, ah batonao. Ama bene lavole, ah tata bateleo. Buka, buka, buka, buka, buka, buka rumba, eh? Solo bello bello, mokele moko mekole gana, esika keba koko bebe ya monde mona yango, yona tata de lobe mopete ya leke mbeo, bello bello yo. Bello bello yo, bello bello, mokele moko mekole gana, ah batona, mokele moko mekole gana. Abotona soka lekepe mama mama de mama komeka. Abotona soka lekepe mama mama e mama komeka. Abotona soka lekepe.